5 e 6, io ti verrò dietro a questo ritmo, hai capito? Perché sono io, sono un uomo inchiodato. Oh.